che passa il vento, sono vuote ma lo stesso sono contento. Tu sei bella da morire e per questo tutto il resto può aspettare. E allora sole, non fermarti, tanto io non ti chiedo di più. Mi va bene così, pochi soldi e lei qui. Sole, gira, gira, sole, finché vuoi. Sole, gira, gira, sole, non fermarti, tanto io non ti chiedo di più. Gira, gira, sole.